Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi ci occupiamo ancora di cinema, però non ci soffermiamo a raccontare la biografia di un attore famoso che ha vinto premi e riconoscimenti recitando in film diversi. Oggi parliamo di cinema guardandolo dal punto di vista di chi in un film mette tutto se stesso, mette il suo personale modo di vedere le cose. Uno sguardo del mondo attraverso le luci, i colori, le sensazioni di un regista. Se poi questo sguardo sul mondo ha un tocco femminile, tutto assume un altro significato, perché prima di tutto nel cinema non sono molte le donne alle quali viene affidata la regia di un film. E poi, se questa donna è anche molto brava e riesce a raggiungere traguardi importanti, allora è la persona giusta che piace a noi, quindi vogliamo raccontare la sua storia. Questa è la storia di Catherine Bigelow. Siamo a New York negli anni 70, un periodo di grande fermento culturale. La Grande Mela è il luogo adatto per poter esprimere la propria creatività. Per questo una giovane ventenne della California, Catherine Ann Bigelow, lascia la terra del sole e dell'eterna primavera per trasferirsi appunto a New York, inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo dell'arte. Lei ha in tasca una laurea presa in California, però la Columbia University di New York è proprio il posto giusto per specializzarsi. A New York c'è poi un gruppo di persone che possiamo chiamare un collettivo, che dagli anni 60 pubblica un giornale dal titolo Art e Language, arte e linguaggio. È un gruppo di lavoro che organizza anche piccole produzioni di cortometraggi. Così la Bigelow si mette per la prima volta dietro a una macchina da presa e inizia ufficialmente la sua carriera da regista. My work with art and language was... Il mio lavoro con Art and Language è stato molto importante e intenso per me, di grande valore, e mi ha dato le basi e l'abilità di poter lavorare mantenendo il più possibile un occhio critico su quello che stavo facendo. E se sei a New York in quegli anni e se sei artista, alla fine il tuo destino va a incrociarsi con Andy Warhol, cosa già successa ormai in decine di puntate nelle quali abbiamo parlato di persone vissute in quel periodo. Non si può prescindere da Andy Warhol. Andy mi disse che il cinema è molto più populista, al contrario dell'arte, che invece richiede un approccio elitario. Per capire un quadro ci vuole una certa preparazione, e per questo il numero di persone che apprezza l'arte è limitato. Il cinema invece è per le grandi masse, per un pubblico più ampio, e spesso si riduce a puro divertimento e non necessita di alcuna preparazione. Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you, I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick and locked up in his room, you asked me for some speed, I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Il corto The Setup è un film di pura provocazione nel quale due uomini se le danno di santa ragione mentre due voci in sottofondo discutono sulla inutilità della violenza. È un cortometraggio di grande impatto nel quale la Bigelow chiede ai due attori di picchiarsi sul serio. Il corto è molto apprezzato, serve alla regista per concludere il suo percorso di studi alla Columbia. ma serve soprattutto a Catherine Bigelow per capire che lei non è fatta per girare soap opera o per girare sdolcinate storie d'amore. Per lei è importante l'azione, la realtà. Sin dall'inizio della sua carriera capisce che la strada da seguire è proprio questa. Così l'82 arriva, è l'anno dell'esordio nel cinema vero e proprio, con il suo primo lungometraggio. Si intitola The Loveless, racconta la storia di una gang di bikers che scorrazzano su e giù per le strade di una cittadina del sud. Il film piace alla critica anche perché ovviamente tutti sono spiazzati dal fatto che una donna possa raccontare così bene, quasi con sguardo maschile, una storia di violenti motociclisti. Io penso che un film abbia maggior successo quando è provocatorio, quando ti lascia spiazzato, quando ti costringe a pensare a qualcosa che non ti piace e magari ti fa arrabbiare. E il mondo del cinema si deve per forza abituare a questa visione delle cose così poco femminile, perché negli anni successivi lei realizza altri film di azione che ottengono un grande successo anche ai botteghini. Nel 90, per esempio, esce Blue Steel, Bersaglio mortale, in cui James Lee Curtis impersona una giovane poliziotta che al suo primo incarico ha a che fare con uno squilibrato assassino. Però il vero salto di qualità, il film che consacra la regista a alti livelli, è Point Break, che esce l'anno dopo, il film dei rapinatori appassionati di surf, interpretato da Keanu Reeves e Patrick Swayze. Ok, amico, sì. Sì, sono fottuto. Io andrò in galera e pagherò, e Johnny Utah diventerà un eroe. Giusto? Buon per te. Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola! Dove vuoi che scappi, amico? Ci sono scogli dappertutto, non ci arrivo, remando in Nuova Zelanda. Tutta la vita ho aspettato questo momento. Vamos, amico. Lasciami andare. Il falco e il gabbiano. Point Break, la storia del giovane agente dell'FBI che si infiltra nella banda dei rapinatori, che agisce indossando le maschere dei presidenti degli Stati Uniti, diventa un cult movie per i giovani degli anni 90. Ancora una volta la critica elogia il film ed elogia la regia di Catherine Bigelow, che riesce a raccontare così bene storie di azione e di violenza. È un primo colpo d'ala che fa da apripista per nuovi successi. Questa conversazione non sta avendo luogo, ok? Puoi dirlo forte. Bene, bene. Allora avrò questa piastra da te. Ti sistemo io, ti prendo una piastra ai prezzi che fanno a me. Il mio campo è il software. Clip, giusto. Clip, giusto. Ora senti, voglio che tu sappia esattamente di cosa stiamo parlando, ok? Questa non è come la TV, è un po' meglio. Questa è vita reale. Un pezzo di vita di qualcuno. Puro e integrale, dritto dalla corteccia cerebrale. Insomma, sei lì. Lo stai facendo, lo stai vedendo, lo stai sentendo, lo stai provando. Strange Days, siamo nel 95 ed è un altro film di azione ambientato in un futuro in cui domina la realtà virtuale. Ci sono alcune cose da dire su questo film. Intanto il soggetto è stato scritto da James Cameron, il regista di Terminator, Avatar, Titanic, che è stato marito di Catherine Bigelow solo per 2 anni in realtà, dall'89 al 91, però i due sono rimasti amici, diciamo competitor e complici, hanno continuato anche più volte a lavorare assieme dopo il divorzio. La seconda cosa da dire è che Catherine Bigelow usa in questo film delle nuove tecniche di ripresa che aveva già sperimentato in Point Break, perché usa telecamere leggere, dando l'effetto di una ripresa sporca, irregolare, amatoriale, un po' da Dogma di Lars von Trier. È una tecnica che viene utilizzata spesso nei film d'azione, perché in questo modo si può descrivere la scena dal punto di vista del protagonista che la sta vivendo. E così Strange Days diventa un noir postmoderno nel quale lei disegna come in un quadro un futuro violento nel quale si trovano a loro agio solo personaggi estremi. Io penso che in un certo senso noi siamo spesso motivati dalla violenza. Agiamo in un certo modo per resistere alla violenza. È un rimedio che attiviamo e lo facciamo scatenando le nostre emozioni. E credo che un film abbia le caratteristiche adatte a suscitare queste grandi emozioni. Tra l'altro, nel film c'è un'attrice che si chiama Juliette Lewis, che interpreta a un certo punto del film una canzone che si chiama Hardly Wait. Catherine Bigelow la vorrebbe doppiare con una cantante di professione. La Lewis insiste, prova e ce la fa. Il pezzo diventa un successo. Da quel momento Juliette Lewis accosta la carriera di attrice anche quella di cantante, scoperta, se così si può dire, da Catherine Bigelow. Negli anni successivi a Strange Days, la Bigelow dirige un paio di cose per la TV, due film che non hanno il successo sperato. Insomma, tutto sembra rientrare in una normale carriera di regista, con qualche picco iniziale, perché Hollywood è un mondo spietato. È già difficile fare questo mestiere se si è maschi, figuriamoci quanta fatica deve fare per emergere e per durare una donna. Però la Bigelow ha un carattere forte, deciso, non molla. I suoi film si sono distinti per essere film di azione. Manca una buona storia da raccontare, una storia con la quale lei possa esprimere tutta la sua bravura nel esprimere i sentimenti umani più forti. Purtroppo la storia arriva anche grazie a un evento terribile per l'America, l'11 settembre del 2001, il crollo delle torri. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta. E gli attacchi di Al-Qaeda a New York e a Washington rappresentano la punta di una guerra di cui purtroppo ancora oggi non si vede la fine. Da una parte c'è l'Occidente con il suo colonialismo, con i suoi danni, con la sua aggressività, con valori più o meno condivisibili, soprattutto quando si parla di esportatori di democrazia come l'America. Dall'altra parte il mondo islamico con la sua rabbia, con i suoi estremisti fuori controllo, e in mezzo c'è il petrolio, che probabilmente poi è l'unica ragione per cui realmente si combattono queste guerre, che in alcuni casi vengono travestite da missioni di polizia internazionale per alcuni e missioni sante per altri. I soldati americani vanno in Medio Oriente e hanno una sola missione: dare la caccia al ricercato numero uno, Osama Bin Laden. Il mondo del cinema è un mezzo con il quale il potere americano vuole compattare il popolo sotto la sua bandiera. Così vengono prodotti molti film che raccontano quei giorni, storie di pompieri, di eroi, di poliziotti senza macchia, decine e decine di film che si concludono con interminabili inquadrature sulla bandiera americana. E poi invece ci sono dei registi che hanno il coraggio di raccontare il lato oscuro degli Stati Uniti, il lato più debole. Vogliono essere testimoni critici di questa fase storica, non vogliono piegarsi alle manovre mediatiche del potere. Uno di questi sicuramente è Michael Moore, che se la prende con Bush accusandolo di essere un burattino debole in mano alle grandi lobby del petrolio e delle armi. E poi ci sono quelli che vogliono mostrare al mondo che, come era già accaduto in Vietnam, l'esercito americano non è così perfetto come vuole far credere. Ha dei punti deboli che bisogna raccontare. Uno dei registi che decide di aprire gli occhi al pubblico è proprio Catherine Bigelow. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la carriera di una regista americana, Catherine Bigelow, una regista che ha scelto la strada più difficile per trovare storie da raccontare nei suoi film. Niente amore, niente bambini, cani parlanti. La Bigelow vuole portare in scena la realtà, la vita con i suoi aspetti spesso negative. Storie di violenza di strada, di emarginazione, storie di vendetta. Siamo all'inizio del nuovo millennio, dopo gli attentati di New York dell'11 settembre. L'America è terreno fertile per questo tipo di storie. Allora, nel 2004, Catherine Bigelow viene contattata da un giornalista americano, Mark Boal, Barbola ha scritto diversi articoli sui veterani della guerra del Golfo, ha trascorso alcune settimane in Iraq, fianco a fianco di un gruppo di artificieri dell'esercito americano, soldati che affrontano la morte ogni giorno disinnescando bombe e mine abbandonate o peggio, lasciate di proposito dai guerriglieri iracheni. I was in aggressive opposition to this. Da un po' di tempo ero molto critica nei riguardi di quella che consideravo un'invasione americana dell'Iraq e cercavo una chiave di lettura per poter esprimere questo sentimento in un film. Contattai Mark, che era appena tornato da Baghdad, e mi raccontò alcune cose che aveva visto. Capimmo subito che poteva essere un punto di partenza per realizzare un film. Così nasce il film The Heart Locker, che racconta il lento trascorrere delle giornate di un artificiere dell'esercito americano in Iraq. Sono giorni di ordinaria follia in cui capita continuamente di avere a che fare con mine da disinnescare, con imboscate, con persone che indossano cinture esplosive, addirittura, come sentiremo, mine addosso a delle persone. In tutto in un ambiente ostile in cui l'americano è il nemico da neutralizzare. Non ci riesco, ci sono troppi lucchetti, sono troppi, non posso farcela. Non riesco a togliertela, mi dispiace, va bene, mi capisci? Mi dispiace, mi senti? Mi dispiace! Posso aiutarlo io? Allontanatemi, via, via! Il titolo del film, letteralmente La cassetta del dolore, si riferisce alla scatola di legno che contiene gli effetti personali di un soldato che normalmente viene restituita alla famiglia quando il soldato viene ucciso. Catherine Bigelow in questo film diventa il testimone scomodo di quello che provano i soldati americani a vivere in un luogo dove chiunque non sia americano li vuole morti, un luogo dove non c'è spazio per la pietà, per la comprensione, perché non ci si può fidare di nessuno. I soldati appaiono come vittime di una situazione che certo non hanno contribuito a creare. È un modo per raccontare quale sia il prezzo per l'eroismo e cosa significhi per questi soldati combattere una guerra che è stata decisa da qualcun altro. Il film esce nelle sale cinematografiche nel 2008, è un film indipendente, naturalmente le grandi major non hanno voluto finanziarlo, nessuna delle grandi lobby potrebbe aiutare a divulgare un film come questo, forse perché racconta una realtà scomoda, poco patriottica, con i soldati che appaiono come vittime di una situazione surreale, sfidano la morte ogni giorno e quando tornano a casa e vivono la realtà quotidiana fatta di passeggiate in famiglia, supermercati, cinema, televisione e tutto ciò che la materna America può offrire ai propri figli, si accorgono di non desiderare più tutta questa sicurezza, tutta questa normalità. Il soldato protagonista del film, interpretato da Jeremy Renner, dal divano di casa sua non attende altro che ripartire per la missione. Tornare a rischiare la vita ogni giorno diventa una droga a cui ogni soldato non può più rinunciare. Sono un soldato americano! Fermo! Buttati a terra! Sono americano! A terra! In ginocchio, ti spariamo! Buttati a terra! Adesso. In ginocchio, non muoverti! Ah, non muoverti, cazzo! A terra, adesso! In ginocchio, apri il giubbotto! Sto aprendo il mio giubbotto! Copertura, fallo stare giù! A terra! Ho un'arma! Sta giù! A terra, cazzo, sta giù! Torre, mantenete la copertura! Ho una pistola! Fermo! Ha un'arma! Te l'ho detto! Ha una pistola! Disarmato! Documento! Che cazzo stai facendo? Sono stato in un bordello. E va bene. Se ti lascio entrare, mi dici dov'è esattamente? Sì. Nelle sale cinematografiche della buona America, l'accoglienza è tiepida, poi non c'è la promozione riservata ai grandi film di Hollywood, non ci sono storie d'amore, di eroismo da raccontare. Insomma, il film passa inosservato al grande pubblico, però non inosservato alla critica, soprattutto all'Academy Awards, quella degli Oscar, che decide di candidare il film a 9 statuette, tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista. From among the 5 gifted nominees tonight, the winner could be, for the first time, a woman. Eh sì, come dice Barbara Streisand, alla notte degli Oscar 2010 potrebbe accadere un fatto senza precedenti nella storia del cinema, perché una donna potrebbe vincere l'Oscar per la miglior regia, e se accadesse sarebbe veramente un colpo di scena, un colpo d'ala senza precedenti. Certo, le probabilità sono minime perché gli altri candidati sono registi famosi, affermati. Per esempio c'è Quentin Tarantino con il suo Bastardi senza gloria, e c'è l'ex marito della Bigelow, James Cameron, con Avatar, un film che è stato accompagnato alla serata degli Oscar con un impatto promozionale senza precedenti. E però se non accadessero cose straordinarie, noi non saremmo qui a fare il programma. And the winner is, well, the time has come, Catherine Bigelow. This is the first Academy Award and second nomination tonight for Catherine Bigelow. This really is, there's no other way to describe it, it's the moment of a lifetime. Questo è il sogno di una vita. Voglio dedicare questo premio a tutti gli uomini e donne che rischiano giornalmente la vita in Iraq, in Afghanistan e in tutte le altre parti del mondo, che possano tornare tutti a casa sani e salvi. La voce di Catherine Bigelow è rotta dall'emozione, lei sta vivendo il suo colpo d'ala, e ha battuto tutti, ha battuto Tarantino, ha battuto l'ex marito con un film con una delle più grandi strategie promozionali della storia del cinema, James Cameron con Avatar. E il film peraltro non vince solo il premio per la miglior regia, perché la notte del 2010 quel film vince 6 statuette su 9 nomination. Tra queste spicca l'Oscar alla sceneggiatura a Mark Boal, il giornalista che, rischiando la vita, ha vissuto da testimone oculare i rischi degli artificieri in Iraq. E poi, a coronare un sogno, arriva anche l'Oscar come miglior film. And the winner is The Hurt Locker. Catherine Bigelow, Nicholas Chartier and Greg Sestero. The Hurt Locker has 9 Academy Award nominations this year, winning 6 Oscars in original screenplay, sound editing, sound mixing, film editing, directing, and best picture. Maybe perhaps one more dedication to per gli uomini e le donne che indossano uniformi in tutto il mondo, soldati, infermieri, pompieri. Loro sono lì per noi, ma noi siamo qui per loro. We're there for them. Thank you, thank you. Dopo la vittoria dei 6 Oscar, il film naturalmente torna nelle sale, e quindi finalmente arriva anche un certo successo economico. Però quello che conta è che Catherine Bigelow ha fatto una grande conquista anche per il mondo femminile. La sua vittoria è stato uno schiaffo a tutto quel establishment hollywoodiano che ha sempre avuto intanto un atteggiamento piuttosto maschilista nei confronti delle donne nel cinema, e poi nei confronti di quelli che hanno sempre cercato di raccontare la storia dal punto di vista strettamente establishment americano. La collaborazione tra Mark Boal e Catherine Bigelow peraltro non si ferma, c'è ancora un capitolo da raccontare nella tragica storia iniziata con il crollo delle Torri Gemelle. Oggi, sotto la mia direzione, gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione mirata contro quel rifugio ad Abbottabad, in Pakistan. Una piccola squadra di americani ha portato a termine la missione con coraggio e capacità straordinarie. Nessun americano è rimasto ferito. Sono state evitate vittime civili. Dopo un conflitto a fuoco, Bin Laden è stato ucciso e il suo corpo è stato preso in custodia. Era il 2 maggio 2011 e il presidente Obama annunciava con orgoglio l'uccisione in Pakistan di Osama Bin Laden, fine di un incubo, dello spauracchio di molti americani. peraltro, insomma, attorno a questo omicidio naturalmente c'è ancora un velo molto spesso di dubbi che verranno fugati forse un giorno. Comunque questa è una storia troppo importante per non essere raccontata. Così Kathryn Bigelow si mette al lavoro con Mark Boal per trasformare in un film l'accaduto. Ancora una volta lei sente di dover essere imparziale e vuole raccontare la verità di come si sia arrivati alla scoperta del covo di Bin Laden, un lungo e minuzioso lavoro dei servizi segreti della CIA con arresti, interrogatori per scoprire le tessere di un mosaico che conduce a questo rifugio a Abbottabad. E nel 2012 esce così il film Zero Dark Thirty. Lei potrebbe agire in anticipo grazie a degli ordini esecutivi. Esatto, e ho intenzione di farlo. L'incontro con Balawi è saltato. Non viene a Islamabad, non può. Non può o non vuole? Sì, certo. Non intende viaggiare. Rischio sicurezza. Ed è una cosa che sicuramente farò. Ho ripetuto più volte che l'America non usa la tortura. E mi assicurerò che non succeda. Questi sono elementi essenziali di uno sforzo per ripristinare la statura morale dell'America nel mondo. Ho ripetuto più volte che l'America non usa la tortura. Questa affermazione di Pinocchio Obama viene smentita da quello che si vede nel film, perché ancora una volta Kathryn Bigelow non racconta la storia di eroi senza macchia. Nel film c'è un'accurata descrizione dei metodi di tortura che gli agenti della CIA attuano sistematicamente per estorcere indizi utili alla cattura di Bin Laden e comunque per torturare a prescindere. Sono le tecniche di interrogatorio rafforzate di cui tanto si è vantato George Bush, salvo poi subire l'indignazione mondiale per le torture inflitte ai prigionieri islamici nella base di Guantanamo a Cuba. Come regista, penso che se nel film c'è qualche argomento scomodo che crea un dibattito che coinvolge la politica, credo che sia costruttivo parlarne con uno sguardo imparziale, e questo dimostra il vero potere del cinema. E la storia ha dimostrato più volte che non bastano dimostrazioni di forza per sconfiggere un nemico. Il problema del terrorismo di matrice islamica non è uno scontro di forza giustificato dalla religione. In questo modo si ragionava una volta ai tempi delle crociate. Oggi il discorso è più ampio, più complesso, bisogna anche essere preparati per affrontarlo. Però a grandi linee riguarda una zona del mondo da sempre oggetto di dispute, in cui nessuno ha provato veramente a dialogare, a comprendere le mille sfaccettature presenti in culture diverse. Tutti noi occidentali ci siamo limitati a conquistare, distruggere e andarcene senza mai ricostruire. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi ogni giorno, e la storia di Kathryn Bigelow è un'altra delle tante storie di riscatto che noi abbiamo raccontato. È anche un modo di vedere l'America attraverso qualcuno che non è di regime. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che merita secondo voi di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui nostri social, insomma se volete mi trovate. Ciao, a domani.